Nuovamente buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di Radio Città Fuji, con un minutino di ritardo ma ne è valsa e come la pena. Inizio dicendo che non abbiamo il consueto sole, del resto la stagione è quella, però il sole è stato portato dai ragazzi del Kinder College, che io ringrazio e mando un calorosissimo abbraccio per questa giovane presenza inaspettata ma quanto mai gradita. Grazie ragazzi, anche perché Alfredo la redazione deve essere un po' svecchiata. No, quindi, sì, siamo appena sfuggiti questa orda di ragazzini simpaticissimi, che forti. E quindi, io non so come si possa sparare sui bambini, francamente. È una roba che. Andiamo avanti col Jet Live e vogliamo portare altro che sparare. Noi spariamo buona musica e tante voci per parlare della rassegna del Bologna Jet Festival e del weekend a Ferrara, che sarà altrettanto intenso. Insomma, è momento di compendio con Francesco Bettini, come dico. Consueto a termine stagione, abbiamo la possibilità con Francesco di direttore artistico di portare così un riassunto, una sintesi. Sarò sintetico anch'io. Anche andata se bene. È una peculiarità che non mi appartiene, farò del mio meglio. Bello, è andata bene, finalmente ho sentito pareri che concordavano con Bologna, città del jazz, ma nel senso di eterogeneità che fa rima con qualità. Ogni sede concertistica ha avuto personalità attinente al proprio percorso, senza tra l'altro esasperare quello che è un percorso stesso, sia nella tradizione che nel contemporaneo, che nel mainstream, che un dialogo con i giovani. C'è stata una grandissima qualità e, come ho detto, qualcosa che ha portato alle orecchie degli appassionati e dei curiosi motivo ulteriore per avvicinarsi, non dico al jazz, alla musica. E questo, secondo me, onore al merito a chi ha lavorato e sta continuando a lavorare per tutto ciò. Anche tu, Alfredo, converrai, immagino, con queste mie parole. Convengo. Ok, ma sai che conviene anche Francesco Bettini? Sì, sentiamolo. È stato anche lui, ha detto: sono soddisfatto, certo, un po' provato, ma comunque soddisfatto. Sentiamo allora Francesco Bettini del Jazz Club Il Torrione, direttore artistico del Bologna Jazz Festival. Siamo giunti al termine del mese di novembre pieno di musica jazz, tra Bologna Jazz Festival e la sede estense del Jazz Club di Ferrara Il Torrione. Con noi il direttore artistico Francesco Bettini, un po' provato, ma c'è. Buongiorno Francesco. Sì, ma guarda, sono riuscito addirittura a riposare 2 giorni. Che non mi ricordavo neanche come fosse, e niente, provato ma contento perché è andato molto bene questa edizione. Certo, ne ho avuto anch'io sensazione seguendo diversi motivi di incontro, molti motivi di incontro in musica, e certamente è stata un'edizione che ha portato tanta soddisfazione e anche grandissima qualità. Allora, facciamo un piccolo compendio di questa edizione tra sedi come club, i teatri, presenze del pubblico. Com'è stata, Francesco? Ma allora, la sensazione è che forse per la prima volta si sia avvertito che la presenza, diciamo, del Festival Jazz sia stata percepita anche da un pubblico, diciamo, più generalista, più ampio di quello strettamente degli appassionati con annessi e connessi. E questo probabilmente perché è migliorata la comunicazione, soprattutto, diciamo, nel versante di quella dell'informatica, del web, dei social e via dicendo, e quindi abbracciando anche un pubblico che prima non si riusciva a raggiungere. E poi perché tutto ha girato a dovere, nel senso che comunque c'erano proposte che potevano anche come dire, scuotere interesse non necessariamente dagli addetti ai lavori. Pensiamo a, non so, Samara Joy, che ha fatto uno spettacolo di jazz estremamente gradevole, classico, e con tutta questa spinta mediatica che era stata determinata dal fatto che avesse vinto di recente 2 Grammy Award, quindi premi importantissimi negli Stati Uniti, ma anche il fatto che, per esempio, il pubblico, diciamo, più giovane abbia ben risposto alle proposte dei nostri partner, in particolare del Locomotive, dello Slitto, del Binario, che sono luoghi appunto di comunità, di giovani musicisti, giovani musicisti, e di un pubblico, diciamo, più trasversale ai linguaggi. Per cui, insomma, tra l'uno e l'altro aspetto dobbiamo dire che ci possiamo ritenere estremamente soddisfatti, perché effettivamente è andato praticamente tutto sold out. E questo è un segnale che ci dà grande soddisfazione e poi, come dire, prospettive interessanti per il futuro. Sul piano economico finanziario dobbiamo ancora tracciare il bilancio consuntivo, per cui non posso esprimere entusiasmo perché non abbiamo i dati, però ancora ci sono diverse cose da sistemare. E anche lì un altro dato che però è meno rilevante dal punto di vista, diciamo, giornalistico, è che il costo delle produzioni è aumentato tanto, perché insomma questa inflazione o iperflazione che si voglia dire incide ovviamente su tutto, per cui è sicuramente, diciamo, aumentato qua, direi così a spanne, del 30% il costo a monte di tutte le operazioni che si vanno a fare, insomma. Per cui, sebbene sia andato tutto sold out, non è detto poi che il bilancio dell'associazione che sottende il festival sia roseo, come dall'apparenza verrebbe a dire, insomma. Però ecco, al di là di questi aspetti, abbiamo anche avuto grandi soddisfazioni dall'immagine coordinata del festival e dal messaggio che è passato, perché ci siamo legati a queste illustratrici iraniane a divulgare il più possibile attraverso il festival stesso la battaglia di Donne, Vita e Libertà. Abbiamo toccato luoghi anche nuovi di produzione, abbiamo consolidato un rapporto con importantissima fondazione, la Fondazione MAST. Abbiamo consolidato quello sia con Unipol che con il Centro Unipol Bologna, dal punto di vista proprio delle produzioni fatte nelle sedi dell'azienda. Quindi, che dire? Intanto lo sta dicendo Greg Osby, Freedom Jazz Dance, questo lavoro dal suo ultimo disco che abbiamo ascoltato sia a Ferrara che a Bologna. Aggiungo che nella seconda parte di conversazione con Francesco non finisce qui, ecco che dire che il lavoro procede e ne avremo anticipazione con Jazz Live. Certo, la rassegna è terminata, tanti altri cartelloni continueranno e diversi motivi di appuntamento, tanta soddisfazione, ottimismo, ed è giusto che ci sia, anche perché, come ho già detto più volte, il lavoro viene premiato come l'entusiasmo di ascoltatrici, ascoltatori, appassionate e appassionati per questa edizione, che hanno avuto commenti molto carichi di entusiasmo per tutto ciò. Greg Osby. Anche per questo linguaggio musicale, Alfredo, che non è esattamente immediato, c'è stata quella curiosità che noi spesso chiediamo. Ecco. Sì, è questa grande eredità trasfigurata dell'insegnamento devisiano, del Beach Brew, dei tanti concerti di quegli anni 70 del grande Miles, che poi è rivissuto nell'NBA Music col funky che si mischia al linguaggio bop, che poi è patrimonio di Steve Coleman, che è stato a Bologna, ma anche di Greg Osby, che è stato a Ferrara. E poi mi pare sia stato anche a Bologna, Greg Osby. Magari adesso il programma a memoria non mi sembra, però sai, era talmente vasto il programma che potresti avere anche addirittura ragione. No, ho voluto sottolineare questo mio errore, o non so, perché molti concerti sono stati ripetuti in diverse sedi e anche in club come il Binario 69 o come altri, insomma, il Locomotive, lo Sghetto Club, il Camera Jazz, la versione quanto mai estesa di visione e ascolto di queste sonorità indubbiamente è stato anche motivo di avvicinamento tra tutte le sedi. Ricordiamo la Fondazione Jazzer, che riunisce oltre Bologna, Ferrara, anche Ravenna con Crossroad, per cui insomma direi che ne abbiamo da ascoltare. È arrivato concerti di primo ordine, vedi Chris Potter. E poi altri motivi che avremo da anticipazione con Francesco Bettini saranno imminenti per quanto riguarda questa settimana, quindi sentiremo così con questo motivo di entusiasmo, anche perché a me è capitato, oltre che per gusto personale, quindi la mia emozione e sensazione si conferma, anzi è sempre motivo ulteriore, ma aggiungo che diversi commenti del tipo finalmente Bologna città del jazz, ecco, commenti di questo tipo che non si sentivano con tanta intensità o tanta frequenza prima, ma adesso in questa edizione ho veramente avuto un polso decisamente diverso di crescita, di partecipazione, di incontro, motivo di conversazione tra un pubblico eterogeneo di diversa età, quindi bene, ho avuto conferma che questi miei sentimenti siano stati condivisi anche da chi ha lavorato in prima fila per la manifestazione. No, sono infatti, ben contento. Infatti William, hai fatto detto, diciamo, quella che è la tua sensazione è anche la nostra, insomma, mi ripeto, siamo sulla buona strada perché appunto questa manifestazione venga sempre più percepita, diciamo, al centro delle attività culturali della città e della regione, special modo in questo periodo dell'anno in cui si è radicata, e adesso sotto con la prossima. Esatto. Sì, perché il dramma è che i finanziamenti, le linee di finanziamento sono tutte subito, per cui per quello che riguarda la sezione della didattica e le residenze artistiche, scadenza il 21 di dicembre, per quello che riguarda il Ministero, scadenza il 31 di gennaio, che significa che bisogna consegnare il programma bello che ha fatto sostanzialmente entro quella data, quantomeno per le attività finanziate dal FUS. Mi pare di ricordare che a fine febbraio invece c'è la legge 13 della Regione Emilia Romagna. Cioè, tutta una cosa così. E poi ricordiamoci anche che Bologna Jazz Festival non è l'unica attività di Bologna in musica, mi spiego meglio. Abbiamo poi appunto tante linee di programmazione che non rientrano in questi finanziamenti e che sviluppano la nostra attività in partnership, per esempio con il Centro Unipol Bologna, con Cubo, le cose che generalmente facciamo d'estate nella sede di Unipol in via Stalingrado, ma anche il rapporto che ci lega con il Museo della Memoria di Ustica, sempre d'estate. E poi tante iniziative estemporanee sia in Torre Unipol che adesso, per esempio, già il 5 e il 12 di dicembre, ma addirittura il 5 abbiamo una doppia, nel senso che Torre Unipol ci sarà il concerto in solo di Mark Ribot alle 21, mentre alle 18.30 del 5 c'è il primo dei due incontri con un bravissimo musicologo, si chiama Luca Bragalini, sul rapporto tra jazz e fotografia, perché è inserito contestualmente a Fotoindustria di MAST, e infatti avviene l'Auditorium MAST. Il primo incontro è più dedicato, diciamo, alla prima metà del Novecento e conseguentemente al jazz, chiamiamolo tradizionale, il secondo alla seconda metà del Novecento e quindi al jazz moderno, ma nel primo caso, quello del 5, richiesta proprio di MAST, si è pensato di fare anche un compendio musicale, per cui ci sarà contestualmente il piano solo di Rossano Sportiello, che è uno dei più bravi musicisti di pianoforte jazz della tradizione, tant'è che pur essendo lui lombardo adesso vive a New York negli Stati Uniti da una vita ed è apprezzatissimo, e quindi abbiamo già non solo da programmare tutto nei prossimi due mesi, entro i prossimi due mesi, ma abbiamo anche alcune iniziative ancora in ballo fino al 12 di dicembre sostanzialmente. Certo, quindi io capisco il tuo riposo breve. Molto breve. È stato molto breve. Beh, poi non dimentichiamoci che c'è il Torione. Certo, no, più tutta la programmazione consueta del Jazz Club di Ferrara, sì, che stiamo seguendo con Jazz Live e continueremo a farlo, ovviamente. Okay. Intanto io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, per le anticipazioni, e poi ci incontriamo a Ferrara, ma è probabile che anche a Bologna sia motivo di incontro. Buona giornata, Francesco. Grazie. Anche te e tutti i nuovi ascoltatori. Un abbraccio. Fabrizio Bosso alla tromba con questa rilettura su Stevie Wonder, We Wonder al Torrione. Ho voluto portare due concerti con due matrici diverse, una appunto in bass, New York, il linguaggio che si incrocia con i funk e con il jazz, qualcosa nel contemporaneo, e poi questo mainstream pop jazz che è di altrettanta raffinatezza ma che è servito su un vassoio che dà possibilità di essere soddisfatti diversi palati, perché il tutto è portato da un filo conduttore di grande qualità. Di la verità, perché c'è Stevie Wonder dietro, confessala tutta. Durante altri suoni in settimana cercherò di seguire tutti questi appuntamenti, quello in Torre Unipol con Marc Ribot. Di Marc Ribot ho un disco, magari lo ascoltiamo, lo teniamo come base durante la conversazione con Francesco Bettini. Ho portato Blue Train di John Coltrane, la formazione invece che troveremo magari da inserire nel playlist a proposito del chitarrista Marc Ribot e con i Los Cubanos Postizos. Beh, Marc Ribot ha viaggiato ovunque. Dovunque, dal metal al punk, sì, a questa musica cubana, ma non un cubano tipo quel social club, no? Quello cubano, quelle con le frappe, le maracas, quelle di Zorro. Molto mariachi. Mariacana, certo. Ecco. E poi per il gran jazz, non dimenticando i Lone Lizard, quindi passi da un certo rock al jazz, eccetera. C'è tutto. Abbiamo un altro Steve, abbiamo parlato di appuntamenti che vanno oltre il Bologna Jazz Festival, ma che sono legati certamente a questa rassegna. Love for Steve, stiamo parlando di Steve Grossman, sarà questa domenica 3 dicembre alle ore 20:30 all'Auditorium Manzoni. Ci saranno Carlo Atti, Piero Dorici, Valerio Pontrandolfo e cito anche Stefano Senni, insomma un All-Star Game molto forbito per ricordare Love for Steve, tributo a Steve Grossman. Alfredo, lascio a te la parola su Steve Grossman, artista che conosco poco. Grossman, sassofonista dotato, che ha trovato Bologna a largo spazio, era un po' di casa a Bologna, un artista in me che ha avuto dei problemi come tanti altri musicisti legati alle sostanze, ma e questo negli impedisce di esprimere un ottimo jazz, un ottimo fraseggio bop, e quindi è molto caro anche tra le file bolognesi e non solo newyorkese. No, viene ricordato appunto con questo motivo d'incontro. Teatro Comunale Bologna, domenica 3 dicembre alle ore 20:30, la curatela, l'Auditorium Manzoni sarà la sede, ribadisco, Auditorium Manzoni è la sede concertistica per questa rassegna, nella rassegna, se vogliamo, o percorso di processo di altri concerti sempre in realtà jazz, e per questo la nostra collaborazione con altre redazioni, come altre connessioni, un format sulla nostra emittente che va dalle 12 alle 13. Io ringrazio tra l'altro Patti, redattrice e conduttrice, che ha portato questa piccola pillola di approfondimento legata al concerto che ci sarà all'Auditorium Manzoni domenica 3 dicembre alle ore 20:30. Sentiamola. Luisa Grosso qui ci presenta un progetto molto importante, un evento che si terrà il prossimo 3 dicembre alle ore 20:30 all'Auditorium Manzoni, un tributo a Steve Grossman dal titolo Love for Steve. E Luisa Grosso, sceneggiatrice, regista e scrittrice, benvenuta. Buongiorno. Questo evento sarà poi parte del film che stai realizzando, che diciamo è un atto d'amore verso questa leggenda della storia della musica jazz che ha vissuto qui a Bologna per circa 20 anni. È una storia d'amore anche dedicata a una persona con la quale tu hai vissuto per tanto tempo, che anche lui ha movimentato le notti musicali bolognesi in quel periodo, è stato tanto amico di Steve. E io ti inviterei a raccontare raccontarci di questo periodo di Bologna, perché poi i musicisti che suoneranno il prossimo 3 dicembre sono stati le persone che sono state influenzate dalla musica di Steve. Sì, la persona di cui tu parli è Sandro Berticeroni, che era mio marito, che è morto nel 2015, ma era il manager di Steve Grossman e ha portato Steve Grossman a Bologna nel 1988-89, e in un momento in cui Steve Grossman non stava molto bene, viveva già in Italia, viveva a Latina, e Sandro, che amava moltissimo il jazz e lavorava spesso con Alberto Alberti, che è stato il fondatore del Bologna Jazz Festival e anche il manager dei più grandi musicisti americani, quindi Sandro lavorava con Alberto Alberti, organizzava con lui i festival del jazz a Bologna, amava molto Steve Grossman, sapeva che in quel momento non stava bene, decise di andarlo a prendere a Roma, perché era ricoverato lì in ospedale, andò a prenderlo, lo portò a Bologna e si può dire che gli salvò la vita, perché lo fece curare, disintossicare, poi gli trovò anche un appartamento e soprattutto gli procurò un contratto molto importante con la Dreyfus, che è stata la più grande etichetta jazz europea. Steve Grossman diceva di Bologna "my second home", ovviamente, perché è rimasto qui più di 20 anni. Ha un ruolo molto importante, perché Bologna si può dire che lo ha accolto, lo ha accudito, in qualche modo gli ha salvato la vita, anche perché quando il rapporto tra Sandro e Steve cessò, perché Steve poi decise di andare a vivere per un po' in un'altra città, poi ritornò, eccetera. Steve Grossman passò un altro periodo molto difficile e fu Valerio Pontrandolfo, che era un suo allievo, ad accoglierlo a casa sua, e abbiamo di nuovo un angelo salvatore in questo caso, perché di nuovo Valerio Pontrandolfo si è occupato di lui e l'ha ospitato a casa sua per molti anni. Ecco che Bologna salva la vita a Steve Grossman, perché salvare la vita a Steve Grossman era un po' come salvare il jazz. E, ecco, Bologna ha un ruolo importante, viene raccontato un periodo in cui, come dicevo prima, la musica jazz si sentiva tutte le sere camminando per strada, perché c'erano moltissimi locali, quindi racconta un mondo che è un po' un mondo perduto. Devo dire che in questo periodo il jazz a Bologna sta tornando prepotentemente, sì, perché sono stati aperti dei nuovi locali, quindi insomma speriamo che continui così, perché il jazz è una forma musicale, una forma d'arte forse tra le più libere in assoluto, perché quando si parla di jazz non si parla tanto dei musicisti jazz e delle etichette, si parla della musica. Ecco, questa è fondamentalmente la differenza. È un modo di vivere anche molto libero. Forse per questo anche Bologna ha amato tanto il jazz. Tratto da Altre connessioni, format curato e condotto da Patti Patti, alle 12 fino alle 13 ogni sabato. Quindi ribadisco l'appuntamento per domenica 3 dicembre, Auditorium Manzoni Love for Steve Grossman, che qui ascoltiamo con Gio Lovano. Gio Lovano, che sarà presente molto nel nostro paese, perché sarà il direttore artistico, contando i concerti, al Bergamo Jazz Festival in marzo, ma sarà presente anche a fine d'anno sia ad Orvieto che al suo costro, diciamo, il Jazz Aquilano del fine del 28-29 dicembre. Quindi lì suonerà con l'orchestra dell'Umbria Jazz, che è un'orchestra di alto livello, tra cui spesso c'è anche il nostro amico Kinzelman dentro, tra gli altri. L'Altone, sì, non è un'orchestra di scappati di casa. No, tutt'altro. Non ho dubbi. E quindi Gio Lovano, insomma. Beh, certo, un nome di prestigio, qua con Steve Grossman a commento del brano di format che abbiamo intercettato. Un po' di musica, pubblicità, si rientra e si va a Ferrara. Jazz Live 103.1 Radio Città Fujiko, a tra poco. puntuali torniamo in diretta. Ogni promessa è debito. Los Cubanos Postizos, questa la corda, anzi le corde di Marc Ribot che stanno accompagnando il rientro in diretta che sarà a Bologna nel post Bologna Jazz Festival. Mentre invece già da oggi inizia il weekend al Torrione Jazz Club Estense. Si inizia questa sera con Simone Alessandrini, Storytellers, la formazione Mania Hotel, è il progetto insomma che trova protagonista al sax contralto Simone Alessandrini, al quale do il buongiorno. Buongiorno Simone. Buongiorno, salve a tutti. Allora, la prima volta che ci sentiamo, puoi un attimo presentare quello che ascolteremo al Torrione questa sera? Sì, ora questa sera presentiamo il secondo disco di questa formazione, e questo disco che si chiama Mania Hotel, che è un disco che diciamo che ha come tema la follia della società rispetto al singolo individuo, diciamo questo per riassumere in poche parole. E sono tutti brani che sono ispirati a storie realmente accadute, che hanno appunto come tema la follia. E questo è un disco che è uscito un annetto e mezzo fa e stiamo comunque continuando a portarlo in giro in sestetto, però abbiamo scoperto, questa è una cosa che abbiamo deciso un paio di giorni fa, questa sera, siccome abbiamo scoperto che 8 anni fa precisi abbiamo fatto il nostro primo concerto. Ah, è anche una ricorrenza. Sì, ma è una cosa di cui ci siamo resi conto un paio di giorni fa, quindi per questa sera volevamo anche omaggiare un po' anche il primo disco. Okay. E quindi volevamo fare un piccolo omaggio al primo disco per presentare appunto poi Mania Hotel e dare anche un assaggio in realtà anche del terzo che uscirà a marzo. Il gruppo si chiama Storytellers perché di base racconta in musica delle storie realmente accadute. Sì. Come dicevo, Mania Hotel ha come tema la follia. Il primo disco che si chiama Storytellers, che è uscito nel 2017, sono tutte storie accadute durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente diciamo durante il periodo della Resistenza. Mentre il prossimo è dedicato a si chiamerà Circe, che è dedicato appunto a questa figura, e ho preso come spunto un libro della metà del 1500 che appunto si chiama Circe per il mito di Circe, della maga. Esatto, immagino. Sì. Esatto, sì. La maga c'è questo. Sì, importante. Sì. Tra l'altro. Sì, una figura molto importante. Poi io sono cresciuto al Circeo, si dice Circeo. Ecco. E quindi era anche un modo per trovare l'origine. Esatto, di trovare in qualche modo le origini. Ascolta Simone, volevo aggiungere a proposito di follia, a volte c'è anche una follia positiva, no? Che è quell'incoscienza, è quel coraggio che dice ma questa non è mica tanto a posto, poi invece si vede che è coraggioso, è ardito, è quell'incoscienza che a volte permette di... E la follia con che accezione è contenuta nel vostro lavoro? Questa è una mia curiosità. Ma questa è un'ottima affermazione, perché in realtà la follia è sempre vista dalla società come una caratteristica negativa, e in realtà appunto in questo disco ci sono alcune storie in cui la follia è vista su diverse, diciamo, a diverse sfaccettature. Immaginavo. Quindi, sì, in realtà poi nella maggior parte dei casi è una follia che è indicata soltanto dalla società. Sì, ad esempio lo stereotipo della società, certo. Esatto, cioè, non so, in questo disco c'è, diciamo che si racconta la storia del dottor Semmelweis, che poi è contenuta anche in un libro abbastanza conosciuto, che questo medico austriaco che nella metà del 1800 diciamo che scoprì diciamo la presenza dei batteri. Praticamente lui si trovava nella sala, lavorava in sala parto, c'erano tantissime morti durante il parto, e quindi lui intuì che medici e infermieri portassero con sé qualcosa di nocivo, e quindi lui iniziò con questa pratica, cioè iniziò a fare dei seminari. Poi lui era un medico praticante, quindi non aveva molto credito, diciamo, all'epoca, quindi lui fece dei seminari facendo lavare le mani a tutti, a tutto lo staff medico. Sì, l'ho letto anch'io quel libro e la biografia di questo medico, che ha, tra l'altro poco conosciuto, ma che è stato in maniera meritoria, ha salvato non so quanti neonati in questo modo. Infatti venne chiamato il salvatore delle madri. Certo, e anche le mamme, ovviamente. Certo, va da sé. Beh, bella iniziativa e motivo di ispirazione. Questa sera, appunto, avremo dei temi conduttori di diversa accezione, ma quello che resta è un tipo di follia. Ti passo Alfredo, che secondo me ha delle domande da farti, almeno una. No, prima vorrei precisare il sestetto con Simone Alessandrini a sax alto, Antonello Sorrentino alla tromba, Federico Pascucci al tenore, Giacomo Ancillotto alla chitarra, Riccardo Gola al contrabbasso, Riccardo Gambatesa alla batteria. No, parlando sempre di follia, no? I passi a Ligabue, Alda Merini, Van Gogh, i passi famosi, ma direi anche Mingus, Charlie Parker, no? Quanto c'è di follia ancora oggi nel jazz, a tuo parere, in un mondo musicale che ormai anche nel jazz si costruisce su conservatori, scuole di musica? Rimane questa grande follia del jazz, a tuo parere? Questa è una bella domanda. diciamo che è un linguaggio che è un po' che ha cambiato anche posto, forse. Diciamo che forse c'erano personaggi che avevano appunto questa caratteristica, come già detto, Mingus, Monk, mi viene anche da dire. Monk, sì. E diciamo che, ecco, che forse il jazz ha preso un'altra. Sta cambiando, in realtà già da un po' ha cambiato orientamento, posizione, sì, certo. No? Perché diciamo che è nato in un contesto e oggi lo giochiamo con un altro, è diventato istituzionale, se vogliamo trovare un termine. Sì. Quindi sì, diciamo che forse la forma di follia non è tanto nel mi viene da dire, non è che chi suona da parte di chi suona, però diciamo che quella cosa che mi viene a dire, che è un po' un grande controsenso, è proprio questa cosa qui, che è un tipo di musica che spesso si trova in un contesto che non è il suo. E che adesso probabilmente anche la follia è nel, chiamiamola però positiva e coraggiosa, è che insomma di soldi non ce ne sono in giro tanti, per cui è anche la voglia di continuare a crederci con grande passione, curiosità ed entusiasmo, che può essere scambiato con una sorta di follia, mentre invece è semplicemente quello di cui non si può fare a meno, cioè della musica, e questo è probabilmente un altro aspetto di follia che possiamo, anche se molto più innocente. Ecco. Beh, spesso mi viene detto, ma scusa, fai questo disco, ma quanto guadagni? Quanto prende lei? Ma sei matto? Ecco, ti diciamo questo. Ecco, vedi, sei matto. Visto che torno, io direi con ma sei matto di concludere. Tutti da internare. Hai capito? No, diciamo che siamo un po' dei missionari, dai, diciamo più che folli. Certo, diciamo che troviamo. Certo. Simone, io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione, ricordando che questa sera sarai al Torrione per presentare il tuo lavoro con musicisti che sono stati appena elencati da Alfredo, Storytellers, Mania Hotel, al Torrione, per iniziare il weekend in jazz a Ferrara. Grazie Simone. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi. A presto. Sfumiamo le note di Assaggio per Mania Hotel con Simone Alessandrini come frontman, concluderemo con Il Sabato, ma saltiamo già a domenica per la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea. Avremo un progetto, luoghi terrestri, luoghi celesti, quindi tra geologia e astronomia mi viene da pensare, e il lavoro di Elide Sulsenti che è qua in diretta con noi, diretta telefonica. Buongiorno Elide, buongiorno. Buongiorno. Allora, già dal titolo mi ha affascinato molto, Fra terra e cielo, è un violoncello solo, ci puoi dire qualcosa di più a proposito di quello che ascolteremo domenica? Sì, allora, si tratta di un concerto per violoncello solo, diciamo un po' inusuale, è un concerto che si basa su dei pensieri che ho avuto, diciamo, tutta la mia vita, perché il concetto di luogo in generale ha sempre per me ricoperto un grande significato per molti motivi. Ricordo da bambina, essendo cresciuta in Sardegna, ogni volta che dovevo lasciare la mia isola era sempre un evento, e comunque sono cresciuta in un ambiente per cui i miei confini, i confini del luogo dove stavo erano molto certi, erano molto sicuri, e nonché i miei stessi confini personali, diciamo. È arrivata poi a studiare fuori, ormai qualche anno fa, e ho realizzato di essere, diciamo, al centro del mondo, cioè che potevo muovermi. Ho realizzato di essere a 3 ore dalla Germania, per esempio, perché ero a Lugano. Ho realizzato di essere in un altro paese, quindi la Svizzera, ma a mezz'ora scarsa dall'Italia. Ed è incredibile, perché è stato per me un senso di spaesamento. Quindi la questione del luogo dove abitavo è diventata centrale per me, diciamo, e soprattutto adesso, viaggiando tanto per lavoro e conducendo uno stile di vita di fatto nomade, mi sono chiesta tante volte ultimamente cos'è per me casa, perché siamo affezionati ad un luogo, cioè per il luogo stesso o per il significato esistenziale che ci porta dietro. E dunque ho cercato di trovare le risposte nella musica che può parlare di luoghi geografici, come per esempio lo Sri Lanka nella sequenza di Luciano Berio che imprende il concerto, e poi musica che può parlare di ricordi, di luoghi quindi emotivi, di luoghi esistenziali, diciamo, quindi i luoghi dell'infanzia, oppure i negativi di un luogo sonoro, come nei pezzi delle compositrici giovani, tra l'altro vicine a Bologna, diciamo, perché sì. Gioia Gurioli è di Faenza, mentre invece Livia Malossi è di Cesena. Quindi appunto suonerò 2 brani di 2 compositrici locali, diciamo. Poi luoghi che possono parlare di concretezza però in senso concettuale, quindi il brano di Tendereschi, e per concludere il concerto luoghi intesi come significati concetti esistenziali, diciamo, quindi il brano di Kaija Spariao che parla di effimero, quindi il luogo esistenziale della durata della vita di una farfalla. Ah, questo proprio veramente è nell'effimero un concetto assolutamente iconografico in tutto ciò, e questo sarà tradotto in note. A proposito di violoncello, Alfredo, hai domande per approfondire la nostra conversazione? Sì, mi domando se in qualche modo, per dicevi inconsueto violoncello solo, ma per esempio nel campo del jazz abbiamo visto Friedlander, ma ti senti più vicino a Yo-Yo Ma, Friedlander, cioè, qual è la tua derivazione più legata alla musica colta? La mia formazione è classica, diciamo, una formazione classica, ho fatto gli studi in conservatorio, diciamo, tradizionali, poi negli ultimi 4 anni mi sono avvicinata alla musica contemporanea, quindi alla musica di oggi, la musica scritta oggi praticamente, comunque negli ultimi 100 anni, diciamo. E infatti adesso sto facendo una specializzazione in interpretazione della musica contemporanea e di ricerca musicale a Lucerna, e diciamo che per me la musica contemporanea è un terreno veramente fertile, perché tante cose che mi ritrovo a suonare sono premieres oppure cose già suonate veramente da poche persone, e mi sento di poter dire veramente qualcosa di nuovo interpretativamente o tecnicamente parlando. Bene, ti esibirai domenica sera in un tempietto del jazz come il Torrione, altre volte c'è un ambiente auditorium da conservatorio. Ti senti in casa dappertutto o ospite dappertutto con la tua musica in questo limbo? Visto che parliamo di luoghi, giusto? È difficile dirlo. E diciamo che al Torrione mi sentirò parzialmente in casa, perché andrò a confrontarmi con un mondo che non è totalmente il mio, cioè il mondo del jazz, diciamo. Però ho sempre apprezzato, in realtà, facendo appunto musica contemporanea, ho sempre apprezzato le commissioni, diciamo, le coine musicali che si possono venire a creare da rapporti di questo tipo. Quindi, per rispondere alla domanda, mi sentirò, diciamo, un ospite desiderata, dai. Ok, desiderata, giusto. Per Serico Tonale, a cura di Istantanea, la rassegna della domenica. Tra l'altro, hai usato termini, hai dato emozioni che sono esattamente in linea con quel che vuol comunicare la domenica con questa produzione al Torrione di Ferrara. Grazie Lide, domenica 3 dicembre 2023, ovviamente. Ti auguriamo. Guarda, ho messo anche una tua interpretazione a commento della nostra conversazione e ci vedremo a Ferrara. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie mille. E anche in questo caso, come si diceva per il piano solo, qua non ci si può nascondere. No, poi violoncello ha un vantaggio, ha un suono, un timbro meraviglioso. Sì. Come il clarinetto, come l'oboe, sono quei strumenti che hanno una corposità, magia, una magia davvero. Una magia, sì, in sé. Allora, siamo arrivati a sabato, tutta italiana è la rassegna di questo weekend. Alessandro Presti, che già abbiamo conosciuto per il lavoro su Miles Davis con il Conservatorio di Bologna, con Sketch of Spain, Daniele Tittarelli, Alessandro Lanzoni, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria, sarà la formazione che prenderà posizione sul palcoscenico al Torrione per la giornata di domani. Sentiamo appunto allora a commento Alessandro Presti per dare anticipazione al concerto. Un gruppo, diciamo, guidato da me, un gruppo che ormai esiste da quasi 10 anni, con Alessandro Lanzoni al pianoforte, Daniele Tittarelli al sax alto, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. Con questo gruppo abbiamo registrato 2 dischi, primo per la Camp Jazz nel 2016 e l'ultimo che è uscito 1 anno e mezzo fa. Insomma, l'ultimo disco ci sta dando tante soddisfazioni. Con questo disco, diciamo, ho vinto il premio come miglior nuovo talento, quindi insomma sono abbastanza soddisfatto, diciamo, della riuscita di questo disco che proponiamo al Torrione. In pratica noi al Torrione faremo dei pezzi che ho scritto per questo disco qui, che si chiama Intermezzo, e poi degli altri pezzi che ancora non ho registrato e che, diciamo, durante i concerti poi si propone sempre qualche pezzo nuovo. Insomma, sarà un concerto prevalentemente di brani originali e poi se ci va di suonare qualche standard, quello si fa, insomma, sempre con molto piacere, ecco. Durante il concerto si possono sicuramente fare delle improvvisazioni collettive, insomma, si parte tante volte da uno strumento e poi, ecco, quando si ha una band molto affiatata, diciamo, quando si suona insieme ad anni, ci si conosce sia umanamente che musicalmente, allora lì puoi comporre estemporaneamente un brano che poi può andare benissimo da un'altra parte e legarsi, per esempio si può tante volte legare un brano a un altro brano con un'improvvisazione in mezzo, un'improvvisazione che può diventare anche un pezzo a sé stante, diciamo. Durante il concerto avere l'ispirazione per scrivere un altro pezzo, magari è così, ti rimane quell'idea in mente appena finisce il concerto e l'indomani dici, ma io per esempio tante volte registro anche col telefono per avere poi la possibilità di riascoltare il concerto e magari a volte da un momento di improvvisazione prendo spunto, ecco, però è un po' difficile che durante il concerto ti rimanga veramente un'idea fissa che poi puoi sviluppare. Io ho studiato musica classica da ragazzo fino ai 20 anni, poi ho studiato jazz e continuo a studiare sia musica classica che jazz, perché soprattutto a livello compositivo mi piace molto l'idea di non essere vincolato a un genere, a uno stile, a uno schema predefinito. Quindi, diciamo, ecco, il rapporto tra tradizione e modern jazz, cioè quello per me in realtà la tradizione è anche la tradizione della musica classica, quella che, diciamo, nel DNA di noi europei, comunque mio, credo che sia prevalente. Quindi a me piace cercare di non confinare il mio modo di scrivere o comunque il mio modo di suonare a un genere, ma far sì che tutte queste cose che ho studiato e che vivo possano confluire in qualche modo e trovare libertà nella musica che scrivo e poi che suono insieme ai miei compagni. Grazie Alessandro. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi, arrivederci. Così avete l'anticipazione di tutti i concerti a Torrione per il weekend. Guarda, avrete poi modo di consultare il programma del Jazz Club di Ferrara il prossimo venerdì, che sarà motivo di stacco per l'8 dicembre. Porterò gli appuntamenti infrasettimanali, come ad esempio giovedì 7 dicembre oppure Marc Ribot il 5 per quanto riguarda questa estensione per il Bologna Jazz Festival, e avrò modo di seguire all'interno di Altri Suoni con il Breakfast Club. Abbiamo fatto tutto anche oggi. Anche oggi molte voci, molti suoni, bene, direi. Bene, abbiamo concluso. Peccato le nostre due voci. Noi, vabbè, che stonano, il resto perfetto. Faccio il podcast e taglio le nostre voci e lascio andare. Fai musica beep, e ospiti. E quindi vi auguriamo un buonissimo ciao, weekend. Ciao, buona weekend. Musica. Ciao a tutte, ciao a tutti.